casa di settembre quando mi laverò. Darò un bacio a mia mamma e partirò. Oggi è il 6 di settembre, fra 5 giorni il mondo cambiò. Ma non è mica tanto vero però. T'ho chiesto tante volte di riuscire un po' a pensare. Ti ho chiesto tante volte di non essere sempre normale. Oggi è 6 di settembre quando mi laurerò. Darò un bacio a mia mamma e partirò. Oggi è 6 di settembre, fra 5 giorni il mondo cambiò. Ma non è mica tanto vero però. T'ho chiesto tante volte di riuscire un po' a pensare. T'ho chiesto tante volte di non essere sempre normale. In questo vuoto di ghiaccio tu, con quali occhi mi guardi tu? In questo vuoto di ghiaccio, una canzone allegra non si ripeterà più. Oggi è 6 di settembre quando mi laverò. Darò un bacio a mia mamma e partirò. Oggi è 6 di settembre, fra 5 giorni il mondo cambiò. Ma non è mica tanto vero però. T'ho chiesto tante volte di riuscire un po' a pensare. Ti ho chiesto tante volte di non essere sempre normale. In questo vuoto di ghiaccio tu, con quali occhi mi guardi tu? In questo vuoto di idee, una canzone allegra non si ripeterà più. Questo vuoto di ghiaccio tu, con quali occhi mi guardi tu? In questo vuoto di idee tu, una canzone allegra non si ripeterà più.